Allora, iniziamo. Buonasera a tutti. Io sono Paolo Broggio, dell'Università Roma 3, e sono stato chiamato qui a svolgere questo ruolo di presentazione, coordinamento di questa presentazione. Appunto, il libro che oggi si discute qui alla presenza di specialisti di storia religiosa, di storia tout court, di storia delle missioni, porta un titolo già di per sé molto significativo, evocativo anche, lascia intravedere molte delle questioni che sono poi concretamente affrontate nel volume. Appunto, è La fondazione religiosa di un impero coloniale, Manuel da Nobrega, 1517-1570, di Antonia Tomassini, che è qui presente tra noi. Quindi, fondazione religiosa, questo è importante, di un impero coloniale, questi due termini sono molto appunto evocativi e significativi, per poi giungere a questo personaggio concreto che è Manuel da Nobrega, un gesuita portoghese, nato, come lo vedete, lo stesso anno in cui Martin Lutero dava inizio alla sua riforma, e che fu tra i primi membri del suo ordine a rapportarsi all'alterità culturale e religiosa del mondo appena scoperto, da poco scoperto, ad Occidente. Infatti, diciamo che sappiamo, voi sapete, che la Compagnia di Gesù tardò qualche anno per insediarsi nell'America spagnola, invece qui ci troviamo nell'America portoghese, quindi il Brasile. E quindi uno dei primi del suo ordine a concepire metodi di evangelizzazione che erano anche, per forza di cose, strategie di acculturazione. Quindi, si diceva, il titolo Fondazione religiosa, Impero coloniale, quindi alla mente risalgono questioni centrali della modernità, l'inizio del dominio europeo sul globo, che in quelle forme sarebbe sopravvissuto fino al XX secolo, e anche la motivazione religiosa che sostenne, soprattutto all'inizio, le conquiste europee. In questo quadro gli imperi iberici assumono sin dall'inizio una caratterizzazione del tutto particolare, perché è la storia stessa dei regni iberici a raccontarcelo: il processo di reconquista, l'assimilazione delle minoranze religiose interne, i battesimi forzati, l'espulsione di ebrei e musulmani, che segnano drammaticamente l'ingresso delle monarchie iberiche nella piena età moderna. Con Manuel da Nobrega ci troviamo per di più di fronte a un membro dell'ordine religioso che più di altri ha incarnato in età moderna l'epopea evangelizzatrice delle monarchie iberiche a livello planetario. Non è un caso che l'arrivo della Compagnia di Gesù nel Nuovo Mondo è universalmente considerata come la cesura tra la primitiva evangelizzazione, in cui furono protagonisti gli ordini mendicanti, francescani, mercedari, domenicani, e l'arrivo oltremare del cattolicesimo tridentino. Quindi il mio compito qui non è di presentare il volume, ci sono persone che lo sapranno fare molto meglio di me, però prima di dare la parola, diciamo, vorrei indicare due questioni importanti che a mio avviso vengono sollevate dal libro di Antonio Tomassini sull'opera del gesuita Manuel da Nobrega. La prima, che il professor Prosperi ha messo in luce nella sua prefazione, è l'individuazione di una differenza sensibile tra il modello spagnolo di misticismo guerriero, virgolettato, e quello portoghese, sicuramente meno indagato del primo, e che si traduce nella formulazione di modelli di evangelizzazione peculiari e anche variabili nel corso del tempo, visto che lo stesso Nobrega passò da un'attitudine chiaramente non violenta, improntata all'adattamento, fino ad arrivare alla giustificazione di metodi più violenti, appunto, in questo suo percorso. La seconda, molto importante, riguarda la formazione, la preparazione dei missionari che salpavano dall'Europa per raggiungere terre così lontane, così diverse da un punto di vista sia naturale che umano. Una questione, questa delle preparazioni, poco indagata in realtà nella storia delle missioni, e che nella vicenda di Nobrega appare di importanza decisiva e su cui Antonio Tomassini nel suo libro insiste, ma che al tempo stesso pone allo storico degli interrogativi non facili da risolvere, in quanto nella maggior parte dei casi i religiosi, non solo della Compagnia di Gesù, non ricevevano prima della loro partenza una formazione specificamente finalizzata all'impiego missionario extraeuropeo, e questo fino al tardo Seicento. Anzi, molto spesso, a partire per le terre d'oltremare, erano i soggetti ritenuti nelle province, così come a Roma, meno promettenti da un punto di vista dottrinale e accademico. Questo è uno dei paradossi su cui bisognerebbe ragionare maggiormente anche a livello storiografico. Quindi non mi attardo oltre, perché appunto il mio compito qui è di dare la parola più che altro a coloro che devono intervenire, e quindi inizia a discutere del libro di Antonio Tomassini la professoressa Francesca Cantù, della Facoltà di Lettere e Filosofia, di cui è anche preside, dell'Università Roma III. Prego. Nel prendere in mano il volume di Antonia Tomassini, dobbiamo saperci invitati a una lettura complessa, una lettura che si dovrà svolgere su diversi piani, non soltanto analitici, e quindi disegnare diversi scenari che si intersecano l'uno con l'altro, e proprio in questo lavoro di intersezione disegnano la profondità delle argomentazioni da svolgere e l'interesse e la complessità del periodo che esaminiamo, ma anche una complessità legata alle interpretazioni da elaborare sulla base di questi dati analitici che vengono raccolti e ricostruiti per dare compiutezza a questo titolo, la cui portata il professor Broggio ha già in qualche modo illustrato, e che rimanda nelle sue diverse articolazioni, la fondazione religiosa di un impero coloniale, Manuel da Nobrega, continuamente da un versante all'altro, poiché queste due parti del titolo sono appunto due versanti a partire dal quale studiare lo stesso fenomeno complesso, cioè il trasferimento di una società lusitana in Brasile, il confronto con la realtà specifica di questo quarto continente, la cui scoperta aveva sconvolto tutti i parametri di interpretazione della cosmografia, della geografia, della cultura cristiana, europeo, occidentale, costruire una società che in qualche modo si vuole speculare a quella che si è lasciata nel vecchio mondo, che in questo momento in Portogallo ha imboccato la fase dell'espansione commerciale, di quella crescita che porterà alla formazione del capitalismo moderno, e che nello stesso tempo deve incorporare all'interno di questa nuova società, che si basa su un criterio anche di sfruttamento, di profitto, una società fortemente mercantile, dove si coniugano interessi altissimi, cioè quelli legati al governo dello Stato, quelli legati all'evangelizzazione, ma anche quelli quotidiani di coloni che attraverso l'impresa brasiliana cercano di crearsi una nuova storia, una nuova ascesa sociale nell'ambito della società del tempo, magari a volte pensando di ritornare in madre patria, poi spendere lì le ricchezze accumulate. Quindi prospettive altissime, prospettive anche legate a questa piccola quotidianità, e quindi i diversi fili delle storie personali, delle storie delle comunità che si insediano nel nuovo mondo, la storia delle comunità indigene che entrano in contatto con queste comunità, si svolge poi in un rapporto dialettico con quello che è il grande teatro europeo, da cui vengono gli uomini nuovi, tra virgolette, nuovi per gli indigeni che popoleranno il Brasile. E quindi non possiamo separarci nel momento in cui vediamo crescere e impiantarsi una nuova cultura e un nuovo confronto culturale o scontro culturale in Brasile, non possiamo dimenticarci neppure di comprendere da quali radici culturali, politiche, da quali esperienze istituzionali e di governo, da quali prospettive riguardanti la storia e la metastoria giungono questi uomini che si insediano in Brasile. La prospettiva del volume è quella appunto di coniugare tutti queste diverse, questi fili della storia, questi diversi fili della narrazione. In primo luogo, certamente, capire come si comincia a disegnare questo impero coloniale, come abbiamo questa presa di possesso di carattere territoriale, una presa di possesso che sull'idea fondamentale della Reconquista iberica era anche un'impresa di popolamento, anche se in un primo momento la corona portoghese adottò il modello della colonizzazione mediterranea, delle piccole imprese, delle piccole feitorias, dei piccoli empori commerciali lungo la costa per gestire le rotte con la madrepatria, e poi progressivamente invece si impone questo modello della Reconquista iberica, che comprende anche una penetrazione all'interno del territorio e quindi un confronto e poi un assoggettamento della popolazione nativa che ivi risiedeva. Quindi in un primo momento abbiamo questa mobilità anche nel disegno colonizzatore del Portogallo, si parte da un'idea di costruire degli impori commerciali, si passa a un'idea di signoria feudale affidando lo sfruttamento e l'organizzazione e lo sfruttamento di questo territorio a dei capitani, la capitania, dei capi militari e civili con il compito di colonizzare e rendere e mettere a frutto queste terre, e questo comporterà un certo tipo di rapporto con le popolazioni indigene che vi risiedevano. E poi, diciamo così, dopo questa prima esperienza, alla metà del XVI secolo, il Portogallo compie una svolta decisiva verso l'assetto politico, istituzionale ed economico sociale del Brasile moderno, con l'abbandono di queste forme strettamente di queste imprese strettamente commerciali o di queste proprietà feudali, con la nomina invece di un governatore generale, con un'assunzione da parte della corona di un progetto politico di governo autonomo e una ripresa quindi di pieno e immediato controllo dei possedimenti nel nuovo mondo. Il primo governatore, Tomé de Sousa, diede un apporto personale decisivo alla realizzazione di questo progetto regio. Tra il 1549 e il 1553 fu il primo appunto governatore di questi territori, istruzioni che contemplavano queste fondamentali direttive: difendere e rivitalizzare le capitanie come circoscrizioni amministrative, però riconducendo nel territorio sotto il dominio diretto del sovrano alla morte dei rispettivi titolari, reagire energicamente contro la penetrazione francese, c'era anche questo attentato dall'esterno, incrementare le entrate della corona, collaborare con i nuovi funzionari regi che venivano a costituire la nascente burocrazia brasiliana, rafforzare le difese militari, edificare la sede del governatorato nella città di San Salvador de Bahia, scelta per la sua centralità e la potenziale ricchezza del suo entroterra. È molto interessante che a questo punto, in questo progetto, si inserisce proprio organicamente il progetto di evangelizzazione, e i primi gesuiti si recheranno in Brasile proprio, diciamo così, accompagnando il primo governatore Tomé de Sousa. Una prima parte, diciamo, del libro di Antonia Tomasini si svolge sulla parte europea, si svolge a Lisbona. Lisbona, diciamo così, è il centro, un po' l'anima di questa realtà fervida di iniziative, di curiosità e di imprese e di spedizioni anche verso il Portogallo. E quindi traccia, diciamo così, ci dà un filo di interpretazione dell'analisi, un filo di interpretazione della realtà sociale e culturale della Lisbona dell'epoca, che quindi in qualche modo ci mette nel quadro per cominciare a comprendere quali saranno poi i dinamismi innescati dal trasferimento dei portoghesi in terra americana. Ed è in questo Brasile, appunto che in questo processo di forte cambiamento delle dinamiche sociali del Portogallo del tempo, e Antonio Tomasini ci richiama su questa attenzione, che vediamo innescarsi e poi maturare la vicenda personale di Manuel da Nóbrega, il quale, ci dice Antonia Tomasini, che nonostante una certa carenza di testimonianze e di informazioni sappiamo provenisse da una famiglia della nobiltà portoghese che vantava stretti legami con il re Giovanni III, ci spiega Tomasini che aveva compiuto gli studi di teologia e di diritto presso l'Università di Salamanca e poi di Coimbra, dove si era laureato nel 1541, e proprio nel 1541 a Coimbra i gesuiti, la Compagnia di Gesù, fonda il suo primo collegio portoghese con Francesco Saverio e Simão Rodrigues, collegio che sarebbe diventato dal 1547 in poi uno dei centri di formazione più importanti e luogo di riferimento dottrinale per tutta l'attività missionaria dei gesuiti portoghesi. Ma se Nobrega si laurea a Coimbra, in realtà nella lettura che l'autrice fa del suo retroterra culturale, della sua formazione teologica, della sua formazione dottrinale, viene messa grandemente in luce il periodo di permanenza all'università di Salamanca, perché negli anni cruciali della sua formazione ivi compiuta, Nobrega è allievo del grande teologo giurista spagnolo Francisco de Vitoria, e un filo costante di lettura della personalità di Nobrega, un filo costante anche per discernere nei suoi non molti ma significativi scritti una linea di posizionamento rispetto al dibattito che allora divideva l'Europa tutta sulla legittimità della conquista, sul diritto dei conquistatori alla guerra giusta, sulla condizione della libertà degli indigeni e sull'affermazione per loro o meno, il riconoscimento per loro o meno di diritti fondamentali della persona, quelli che oggi noi chiameremmo così e che allora si chiamavano i diritti naturali. Ecco, questa esperienza, questa formazione alla scuola di Vittoria viene veramente molto messa in rilievo. Dopo essersi laureato, entra Nobrega nell'ordine ignaziano nel 1544, e anche qui da Tomassini ci fa seguire alcune linee della sua biografia che sembrano particolarmente adatte per capire poi come in fondo questa esperienza viene a formare quello che sarà il missionario futuro. Entrato nell'ordine, infatti, Nobrega sceglie per sé il ministero di procuratore dei poveri e si dedica alla predicazione itinerante del Vangelo alle popolazioni rurali delle aride campagne portoghesi, rivelando nel prosieguo delle sue attività, nonostante questa sua fine formazione teologica e giuridica, un certo antiintellettualismo, legato forse alle prime contraddizioni che avevano caratterizzato il suo itinerario vocazionale. Infatti sembra che in un primo momento fosse attratto anche dall'esperienza della predicazione, ma avendo un piccolo difetto di parola, forse balbettava un po', rinunciò a questa sua aspirazione. Nello stesso tempo, dai suoi scritti traspare anche una certa familiarità con il pensiero dell'umanesimo cristiano e una conoscenza da Rotterdam, è una conoscenza di Erasmo da Rotterdam che successivamente mise anche in luce, probabilmente scegliendo la forma del dialogo nello stendere la sua opera più importante che Antonio Tomassini poi traduce e ci presenta nel volume, su cui ritornerò poi nel momento conclusivo delle nostre riflessioni. E anche qui, diciamo così, l'autrice apre tutto uno scenario legato al ruolo e alla presenza di Erasmo da Rotterdam nel mondo spagnolo e nel mondo iberico più in senso più lato, proprio per fare vedere come la complessità del personaggio si costruisce non soltanto nel rapporto con se stesso, le sue inclinazioni vocazionali, non soltanto nel suo rapporto con la Compagnia di Gesù e quindi la modalità concreta poi di praticare i suoi voti religiosi, ma anche in un contesto culturale europeo più ampio. L'unico frammento sopravvissuto di una sua prima lettera, scritta ancora durante la permanenza a Coimbra, consistente in appena un rigo e mezzo, e la citazione è questa: «Forse non so cosa cerco, ma in tutto voglio cercare soltanto Gesù crocifisso», lascia intravedere un temperamento apostolico non privo di aperture a risonanze mistiche. Nel seguire la formazione di Nobrega e poi nel seguire anche l'impianto dei gesuiti in Brasile, c'è anche un altro livello di analisi che accompagna questa vicenda, ed è un confronto, diciamo così, direi quasi un po' sotterraneo, perché è sviluppato per incisi, è sviluppato per citazioni, sviluppato, che però è molto significativo con l'esperienza spagnola, perché effettivamente ci ritroviamo all'interno di uno stesso mondo iberico, e però effettivamente le strade poi hanno parentele e anche divergenze, e questo è molto interessante perché effettivamente ci sono alcuni nomi o alcuni paragoni che non si possono tacere, che vengono immediatamente sotto la penna. Penso ad esempio a quello che è stato il grande evangelizzatore, grande sostenitore dell'emancipazione delle popolazioni indigene, Bartolomé de las Casas, e quindi evidentemente, anche se poi il contesto è molto diverso, anche se i gesuiti spagnoli in qualche modo riscopriranno Las Casas soltanto quando nel 1568 si recheranno in Perù e si troveranno a confrontarsi con l'evangelizzazione degli indios del mondo andino, dove era rimasta, diciamo così, una risonanza delle dottrine di Las Casas attraverso l'opera dei domenicani. Quindi non abbiamo un confronto immediato, non abbiamo un rapporto immediato a Nobre e Las Casas, però è evidente che quando poi andiamo a delineare la sua concezione dell'indio brasiliano, quando andiamo a delineare la sua riflessione sulla modalità più o meno pacifica dell'evangelizzazione, anche questo è un confronto che in qualche modo era giusto evocare, anche se in qualche modo fra le righe. Nobrega giunge in Brasile nel 1549 e quindi poteva già contare su una vasta esperienza delle missioni interne della Compagnia di Gesù, e dobbiamo dire che è una, forse è l'anima trainante, almeno finché non arriverà più tardi con un viaggio successivo a Anchieta, che costruisce la missione gesuitica in Perù, in Brasile. E la costruisce non soltanto sul versante religioso, e che non era poco, ma la costruisce anche sul versante della collaborazione con l'autorità di governo, che è fondamentale. Ecco, possiamo sottolineare questo aspetto molto importante dell'impianto dei gesuiti in Brasile, e che avviene in pieno accordo con la politica della corona. Naturalmente all'inizio, poi c'è una storia che si dipana, ci sono tante contraddizioni che emergono, e una delle prime contraddizioni è il confronto con i sudditi lusitani di questa corona, cioè i coloni che si erano già impiantati, il Brasile è scoperto nel 1500, siamo nel 1549, si erano già impiantati, e che ai gesuiti che arrivano fanno l'effetto più di una società di demoni che di una società di cristiani, nel senso che si erano assuefatti a vivere al margine delle leggi dello Stato e sicuramente molte volte al di fuori delle leggi della morale cristiana. Quindi un primo rapporto dialettico si svolge proprio tra i gesuiti e i coloni brasiliani, coloro che avrebbero dovuto essere in qualche modo il braccio destro dell'opera di evangelizzazione, sono nella percezione dei gesuiti i loro più efficaci oppositori. Dobbiamo anche dire che questo conflitto con i coloni, e poi anche le diverse soluzioni che si dovranno trovare nell'equilibrio tra gli interessi del Vangelo e gli interessi dello sfruttamento economico e commerciale, gli interessi dell'organizzazione politica e istituzionale, le finalità che il governo lusitano si propone di raggiungere, costelleranno questo rapporto con i governatori da parte dei gesuiti di momenti anche di una certa difficoltà, che si traduce anche in una periodizzazione, era stato fatto un accenno velocemente, dell'attività missionaria di Nobrega in un primo periodo, diciamo così, e in un secondo periodo. Che cosa trova Nobrega e come in qualche modo comincia a definire la sua posizione nei confronti dell'opera di evangelizzazione? Diciamo che il compito di trasformare dei selvaggi che sembravano appartenere all'età della pietra in agricoltori insediati stabilmente in villaggi e praticanti la religione cristiana secondo il modello della società contadina dell'Europa sembrò ai missionari in modo alternativo, a volte un'impresa entusiasmante, a volte un'impresa assolutamente disperata. E allora qui c'è un altro filone di lettura del lavoro di Antonia Tommasini, che è proprio quella di cercare di capire attraverso quali, non soltanto come dire, mezzi di comunicazione catechetica i missionari potevano annunciare il kerygma fondamentale, cioè la proposta di salvezza cristiana alle popolazioni indigene, ma anche attraverso, cioè, quali strumenti possedevano essi stessi per poter in qualche modo adeguare i contenuti di questa comunicazione alle capacità di comprensione delle popolazioni indigene. Allora qui si cominciano a porre dei grossi problemi che appunto che l'autrice ci fa percorrere in diverse fasi e con diverse notizie. Un primo problema fondamentale è quello della lingua. Bisogna parlare, bisogna comunicare. No, le cronache spagnole ci parlano dei primi contatti avvenuti con la lingua spagnola, con la lingua indigena, ma così come missionari con la lingua latina, ma così come missionari i frati francescani e domenicani in Messico e in Perù presto capirono che occorreva assolutamente ricorrere alle lingue indigene per poter andare a raggiungere i loro neofiti al cuore delle loro credenze e innescare a livello delle coscienze personali un processo di trasformazione, bisogna parlare nella lingua indigena. Questa è una grossa questione all'interno della Compagnia di Gesù sul terreno missionario, perché parlare le lingue indigene significa un lungo periodo di addestramento anche per i missionari, l'acquisizione di capacità importanti sia a livello di traslitterazione fonetica delle lingue indigene nell'alfabeto portoghese, spagnolo, il nostro alfabeto della società europea occidentale, sia la pertinenza della traduzione e soprattutto la grande preoccupazione che il ricorso alla terminologia indigena non introducesse nei concetti cristiani che devono essere comunicati degli slittamenti semantici tali da perpetuare il pericolo che al di là di un'adesione cristiana potessero sopravvivere credenze eterodosse all'interno della professione di fede. Ma non si trattava soltanto poi di trasmettere il messaggio evangelico, ma di organizzare tutta una vita cristiana e quindi di costruire una morale cristiana che facesse seguito anche e inverasse, per esempio, la pratica sacramentale. E allora ci sono alcune questioni che sono particolarmente messe in evidenza dall'analisi in questo volume. Una questione che sembrerebbe minore, che invece è veramente massiccia, è quella dell'antropofagia delle popolazioni brasiliane. La documentazione gesuitica ci lascia delle descrizioni di queste pratiche che sono insieme banchetti e rituali che vengono celebrati veramente impressionanti, ma capite benissimo che la pratica dell'antropofagia era quella che maggiormente arrecava una sfida, era quella che dava che portava una sfida radicale al riconoscimento della piena umanità e dignità umana delle popolazioni indigene. Un'altra questione molto importante e che viene evidenziata, anche questa è cruciale nella storia dell'attività missionaria della Compagnia di Gesù, è quella dell'adattamento. Cioè, si può evangelizzare esattamente con le stesse forme, con le stesse modalità, con gli stessi metodi, con gli stessi contenuti con cui si evangelizzano le popolazioni, per esempio contadine, le missioni interne in Europa, o bisogna in qualche modo cercare di adottare tutti quegli atteggiamenti, tutti quei concetti anche, che senza compromettere il contenuto delle verità della fede, però sono culturalmente comprensibili alle popolazioni indigene. Per esempio, una piccolissima cosa che non è tanto piccola è la nudità, che per le popolazioni indigene, che per noi ha un valore morale, cioè fondamentalmente un segno di impudicizia, ma che per le popolazioni indigene era un modo assolutamente naturale di presentarsi e di vivere. Allora, questa nudità come si risolve quando si celebra la messa? Si può permettere di venire a messa nudi agli indigeni o bisogna sono piccole cose, le cito perché potrebbero quasi apparire, diciamo così, sotto forma di aneddoti, e molte volte sono state riferite anche con questo profilo nell'ambito della storiografia occidentale, ma che oggi la raffinatezza degli studi, che si basano anche sulla risultanza dell'antropologia culturale o di quel filone più recente di storiografia che ha elaborato i concetti che girano intorno a quelli che si chiamano i post-colonial studies, ci dice che questi sono elementi in realtà cruciali nel contatto fra le culture, perché da un lato sembrano veicolare dei disvalori che si tramutano poi in pregiudizi molto forti, e poi quando si compromette la dignità di un essere umano lo si può poi anche, volendo, sfruttare illimitatamente, poiché non siamo così coinvolti, non ci riteniamo così legati, diciamo così, a salvaguardare i diritti fondamentali della persona, e allora anche cose che potrebbero sembrare più marginali hanno un riflesso molto grande. In questo sistema di trovare, potrebbero essere molti altri esempi, ma io non voglio privarvi poi del gusto di leggere direttamente queste pagine e di trovare queste indicazioni. Altre questioni molto importanti sul piano del metodo, a cui sono dedicate molte pagine di analisi, è questo concetto di evangelizzare tramite i bambini. E non è una piccola cosa, i gesuiti in Brasile non è una novità assoluta, nel senso che anche i francescani giunti in Messico, basta leggere la storia ecclesiastica indiana di Mendieta per capire come anche i francescani si avvalsero dei bambini per cercare di penetrare nell'universo degli adulti, e soprattutto pensando ai bambini come degli esseri ancora incontaminati, che quindi in qualche modo non avevano bisogno di essere sradicati da vizi di lungo periodo, ma potevano essere formati come docile le cera, diciamo così. E qui ci sono delle pagine molto interessanti che sottolineano l'importanza dei concetti educativi, dei collegi che vengono fatti, la famosa istituzione della Casa dos Meninos, dove facevano venire anche i bambini dal Portogallo che diventavano loro stessi agenti di evangelizzazione dei bambini indigeni. Poi altre questioni di carattere teologico-dottrinale, ma piene di conseguenze pratiche, come la questione del battesimo, per esempio, se e come conferirlo, se c'era garanzia o meno che poi ci sarebbe stata perseveranza nella pratica cristiana. Ecco, questo è un po' l'universo, diciamo così, delle problematiche che alimentano poi anche dei dubbi, diciamo così, negli evangelizzatori. E allora vorrei concludere, ci sarebbe tanto da dire, ma poi vorrei concludere riportando l'attenzione su un testo, perché il volume, diciamo così, poi si pregia anche di avere dei testi in appendice, quindi di invitare al confronto diretto coi documenti dell'epoca, che è sempre molto molto molto propositivo e molto suggestivo. Ecco, e allora porta la traduzione di questo dialogo sulla conversione dei gentili. Abbiamo detto che c'era una, effettivamente si può sostenere, una certa venatura di antiintellettualismo in Nobrega, nel senso, diciamo così, che non troviamo qui grandi elaborazioni teoriche come poi si produssero in altri missionari. Cita Antonio Tomasini José de Acosta, per esempio, un gesuita che ha operato nel Perù, e però in questo breve dialogo, un dialogo estremamente interessante, di cui vorrei sottolineare un punto di vista, un punto mi sembra che sia. Dunque, in questo dialogo si mettono in scena due confratelli gesuitici che discutono tra di loro, da un lato gli insuccessi dell'evangelizzazione, cioè si fa tanta fatica, ci si prodiga, si dà del proprio sangue, del proprio tempo, e poi questi indigeni che sul momento si convertono, che sul momento sono affettuosi, che dicono sempre di sì, poi non si stabilizzano mai in modo permanente nella nuova fede cristiana. Sfuggono dai villaggi, ritornano nel sertao, riadottano le loro pratiche tribali, ritornano alla poligamia, e qualche volta ritornano anche all'antropofagia. Allora, diciamo così, mettere in gioco la propria vita serve a qualche cosa o no? Ecco. Allora, quello che è interessante di questo dialogo è sì sicuramente il risvolto dottrinale, forse altri lo riprenderanno, non mi posso fermare, sto concludendo, ho usato molto tempo e mi scuso con voi. Ma quello che è molto interessante è che per la prima volta questo dialogo tematizza un'altra questione che in fondo è strettamente connessa con quella della salvezza delle popolazioni indigene, ed è la salvezza del missionario che evangelizza. Cioè, si può per guadagnare un'anima perdere la propria? Ed è molto interessante perché qui, come dire, viene in luce, si mette un nodo importante della Compagnia di Gesù, perché in questo periodo, e poi si arriverà a una formalizzazione di questa problematica successivamente, in modo particolare durante il generalato di Claudio Acquaviva, però in questo periodo, che è il primo periodo, che è il periodo fondativo in fondo della Compagnia di Gesù, quando si discute di quali siano, diciamo così, i criteri fondamentali, i punti fondamentali della vocazione gesuitica, ebbene, uno di questi punti è la vocazione missionaria. Allora, a questo punto la missione non è più soltanto, e non lo dico in senso diminutivo, lo dico in senso problematico, non è più soltanto andare a portare la parola a coloro che non conoscono Cristo, ma è anche adempiere ad una vocazione a cui Cristo ha chiamato il singolo missionario, che attraverso i voti religiosi deve raggiungere la perfezione cristiana. E quindi la salvezza della sua anima, in un certo senso, è importante come la salvezza di coloro che debbono essere salvati. Allora occorre veramente riuscire a trovare delle risposte, non ci si può fermare, diciamo così, sulla frontiera dell'incertezza, perché questo genera un'inquietudine che poi piano piano svuota, diciamo così, la passione del missionario e in qualche modo anche non lo sostiene nelle estreme difficoltà che deve affrontare. Ecco. Allora, io non voglio abusare oltre della vostra attenzione, vorrei soltanto avere dato un po' l'idea delle diverse possibilità di leggere questo testo, delle tante problematiche che affiorano e che poi ci dicono una cosa che mi dispiace dire, nel senso non che mi dispiace dirla. È una lezione importante che si impara, che anche quando si scrive un libro non si è mai arrivato a mettere la parola fine, perché soprattutto quando ci si misura con delle grandi insomma, con tematiche importanti, con tematiche, ebbene, c'è sempre qualche cosa in più che nasce dal lavoro che si fa, cioè dopo che si è raggiunta una certa sistemazione che ci appare ultimativa e che quindi poi si propone in lettura al pubblico, resta poi sempre in fondo nelle cose dette, nelle cose trattate, una sfida per qualche ulteriore interrogativo che nasce dalla lettura di e questo è il senso del concatenamento anche del lavoro storiografico, no? Qualcuno vede una problematica, la delinea, la analizza, la interpreta, la propone, la legge, qualcun altro prende il testimone e dall'interno di questo processo, diciamo così, di apprendimento, di conoscenza, di discussione con se stesso e con l'autore che ha sperimentato, è pronto per fare un altro passo. Allora, grazie Antonio Tommasini per i passi ancora che farà fare alla ricerca con il suo lavoro. Grazie tanto. La moltissima grazie alla professoressa Cantù per la ricchezza di spunti che ci ha offerto, insomma, che sono venuti fuori dalla lettura del libro di Antonio Tommasini, e io passerei senza indugiare la parola al professor Martin Morales, che è professore di storia, ma è anche direttore del Dipartimento di Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana. Grazie. Grazie. E come diceva Derrida, uno dovrebbe cominciare o finire un discorso dicendo sempre grazie e perdono, no? Perché grazie dell'invito, no? A Antonia Tommasini e di condividere questo tavolo con la professoressa Cantù, con il professore Prosperi e Paolo Broggio. E perdono perché io temo che forse vado fuori del seminato subito, così, però poi il maestro Prosperi sicuramente ci rimetterà sulla, sulla retta via, perché, e approfitterò senz'altro degli spunti della professoressa Cantù, che no, come non poteva essere altrimenti, ha subito focalizzato delle cose molto, con la sua competenza, delle cose molto importanti. La prima difficoltà è questo genere letterario della presentazione del libro, no? Che devo dire che è una questione difficile, dove io spesso mi trovo un po' a disagio, perché poi qui siamo tra amici, nel senso che certo, dunque il parlare è sempre un parlare dosato, non dico di corte, ma ci sono delle regole che vanno osservate, diciamo così, no? E dunque forse la cosa migliore che si può fare con un libro è leggerlo, no? Certo, il fatto che venga raccontato, sviscerato, però è sempre un'occasione, e dunque io cercherò disordinatamente di dire perché uno può fare un'esperienza interessante leggendo questo volume, anche forse non leggendolo dalla prima all'ultima pagina, ma leggendo dei capitoli e affacciandosi a quell'appendice di documenti molto interessanti che Antonia ci propone. Il tema interessante, io per un po' di anni mi sono occupato dei gesuiti tuttora, anche come dicevamo con Prosperi, quasi una maledizione della quale uno non può così uscire, perché se vogliamo affrontare il tema della modernità, stanno lì, c'è poco da fare, no? E ti piaccia o non ti piaccia, non è che è una finestra privilegiata, un osservatorio privilegiato per la longue durée di questa istituzione, che perfino si ripropone dopo il 1814, sembrava che erano morti, no? Risuscitano, tornano, non so, come i templari che sono finiti, no? E dunque li possiamo in qualche modo trattare come oggetti del passato, questi sono tornati in diversi modi, però stanno lì, c'è una continuità in questo corpo, anzi sono tornati, questo essere tornati li fa essere risorti, quasi come risorti sembra che sia un corpo che ormai non morirà più, no? E il libro è interessante perché percorre dei temi appassionanti, per me che mi sono appassionato per questa storia dei gesuiti in Paraguay, che di per sé sarà un tema bandiera per la Compagnia di Gesù, per i nemici della Compagnia di Gesù. Il Paraguay, come sapete, sarà un luogo, un topos, no? per fare tanta polemica ieri, oggi un po' meno, perché la polemica, per fortuna, per noi storici si è spostata ad altri campi, quindi ci lasciano lavorare un pochino più in pace, diciamo così. E quindi sì, questo tema della differenza, come accennava Prosperi nell'introduzione al volume, tra il fare spagnolo, il fare portoghese da una parte, questo è chiaro, e si vedrà nella storia di Lozano, una delle prime storie della provincia gesuitica del Paraguay, questa differenza anche tra i gesuiti portoghesi e spagnoli mi sembra molto interessante, differenze che arriverà al conflitto. I gesuiti portoghesi sono più portoghesi che gesuiti, o la mia impressione in qualche modo, no? Questo essere portoghese peserà molto all'interno dell'ordine, sarà uno dei problemi grandi dei gesuiti dell'antica compagnia, il far già dall'epoca di Ignazio di Loyola, il far convivere le nazionalità diverse. Quando Pedro de Ribadeneira, che è il primo, forse non il primo in assoluto dopo Polanco, però a fare una vita del santo, diciamo così, Ignazio di Loyola, gli viene detto: beh, Pedro, hai messo pochi miracoli in questa vita di Ignazio di Loyola, e di fatto poi per la canonizzazione del santo Mercuriano incaricherà ad altri una vita che sia più degna di uno che sarà canonizzato, no? E a questa critica il Ribadeneira dirà: che volete, che miracolo è più grande di fare vivere insieme spagnoli e francesi, no? Già allora queste nazionalità che vengono a confronto all'interno dell'ordine sarà un grosso problema e sarà uno dei, come dire, dei capitoli che porterà alla morte di quest'ordine nel XVIII secolo, tra altre cose. E quindi il libro apre una serie, come dire, di temi molto interessanti. Ecco, se questa azione di Nobrega in qualche modo è prodromo a quello che succederà in Paraguay, sembra di sì, che lui veda che soltanto facendo questi villaggi chiusi, diciamo così, che verranno chiamati reducciones, ma che poi sulla parola viene molto mal tradotta come riduzioni in italiano, perché sapete che non c'entra affatto con il ridurre, no? Ma con il condurre a vita politica, secondo loro, le cose, no? Il ricondurre, no? E quindi chiudersi un paio di gesuiti con gli indiani in un villaggio che per l'appunto verrà chiamato Reducciones, Pueblos de Indios, eccetera. Progetto che poi in Paraguay, dico, avrà una realizzazione molto importante con questi 30 villaggi. E quanto questo progetto nasca morto, quanto questo progetto vada in qualche modo contro i tempi, contro un'America che già allora era meticcia, quanto questo dei gesuiti di essere quasi gli unici interlocutori politici, civili, religiosi di queste popolazioni sia stato un successo o meno, ecco, qui il lavoro dello storico a chiederselo e tentare una risposta. Ma io, approfittando di alcuni accenni della professoressa Cantù, che in qualche modo mi ha aiutato a dare un po' un ordine a queste mie note, e volevo percorrere o chiedermi su alcune cose. Perché questo volume interessa? Ecco, perché dovrebbe essere interessante, con tutti i problemi che abbiamo noi oggi, di perdere tempo sfogliando questo volume, no? Perché io mi sono chiesto un po' questo, no? E perché interessa ancora, e potremmo ripetere la domanda, un personaggio come Matteo Ricci? Ma che ha a che fare con noi, no? In questa modernità tardiva, con i problemi che noi abbiamo, perché questo volgere ancora il nostro sguardo a 300, 400 anni or sono e vedere queste cose? E vedete, io che sono un po' forse in crisi col mio mestiere, con la mia vocazione in quanto storico, rispondo un po' questo, cioè la storia, cioè quello che noi cerchiamo di fare e con passione quando facciamo storia, non è tanto conoscere il passato, che sappiamo in partenza che questo è difficile se non impossibile. Quello che, almeno a me, interessa come storico è la congiunzione di questo che io chiamo passato con il mio presente. Questo sarebbe, cioè lo storico più che uno sguardo all'indietro guarda l'oggi, o meglio quel punto di unione tra quello che lui chiama passato e che dichiara che è passato, e tutto questo a beneficio di inventario. Dice che questo è passato, quindi che questo non c'è più, e con l'oggi. E forse, per l'appunto, è a partire dell'oggi, credo adesso, se mi avete un po' di pazienza, e che questo libro potrebbe essere interessante. Io non so che farà Antonia da Grande, però certo sarebbe un peccato che non continuassi in parte, perché poi uno nella vita sceglie quello che può, poi la vita sceglie per uno, ti sceglie, no? Però sappiamo che è difficile questo, no? Però sarebbe un peccato non continuare alcune delle, come dire, dei tratti che tu hai enunciato in questo volume. Per esempio, io, questo volume parla di un'assenza, di una voce che non c'è più, e che la voce è per l'appunto del Tupinambà, del Guarani, no? E questa assenza vorrà essere colmata dalla scrittura come operazione occidentale, no? Questa voce che non c'è, ecco, che entra la storia a dire io sarò, oggi forse abbiamo il politico che interpreta la voce del popolo e scrive, dice, perché sempre c'è uno di turno, c'è uno che interpreta una voce che non c'è e gli dà, pretende darle forma a questa cosa, compito non di poco conto questa cosa, no? Questa assenza, il primo punto dove io la vedo è un tema che la professoressa Cantù ha enunciato, che si presenta nel libro, che sono diceva la professoressa Cantù, le risonanze mistiche di alcuni di questi missionari. Ecco, vedete, io penso che questo sarebbe un tema interessante se la Tommasini si dedicasse alla storia, o continuasse con la storia, sarebbe un tema interessante collegare il mondo mistico del XVI secolo, XVII secolo, con il mondo missionario, nel senso che questa missione che parte in questi secoli parte in una situazione critica dell'Europa dove Dio è assente, no? Dio è percepito come assenza. Ed è percepita come assenza perché in Europa si stanno trucidando in nome di Dio, no? Cioè dunque la voce mistica ricorderà anche un po' questo, il mistico parla non di Dio, questa è la teologia, no? Il mistico parla di un'assenza. E questo collegamento tra il missionario e il mistico nella Compagnia di Gesù è un collegamento che potrebbe essere molto interessante, perché in questi anni c'è una crisi in questo ordine che ancora non è ordine, perché lo sarà con Acquaviva. Forse la Compagnia di Gesù si fonda più che con Ignazio di Loyola, con Acquaviva, no? Diciamo così, con la scrittura, ancora una volta, con i testi, con la regola. Questo corpo, in questi secoli, in questi anni, sta avendo una crisi molto grande, perché è morto il fondatore, un mistico, uno che si ritira, che lascia praticamente il governo dell'ordine, lo lascia in mano a un segretario che si chiamava Polanco e che scriverà a nome suo 6.000 lettere, cose del genere, e lui invece si ritira, comincia ad essere l'Ignazio mistico che la storiografia dell'ordine dimenticherà presto, perché non serve, serve l'Ignazio militare, serve l'Ignazio che organizza, questa è la figura che verrà fuori della geografia gesuitica di Ignazio di Loyola, questo Ignazio mistico che si perde in Dio e che si perde in questa assenza di Dio, però verrà, questa presenza del fondatore verrà vissuta in alcuni gesuiti francesi, spagnoli alcuni, portoghesi, che a questi confratelli che sbandierano la missione, dicevano i gesuiti dell'epoca, lasciare Dio per occuparsi di Dio, cioè per andare al prossimo, no? Questo era il moto gesuitico, no? Cioè lasciare il Dio della preghiera, dell'incontro mistico, per andare a trovarlo nella missione. Ci sono molti, alcuni gesuiti, che in questi anni aprono una crisi profonda all'interno del corpo, dicendo qui si sta perdendo questa istituzione fondata ad Ignazio di Loyola. Non si prega più, si prega poco, si dovrebbe pregare di più, e i gesuiti si dedicano all'apostolato, come diremo oggi, no? Cioè alla missione, all'effectus più che all'affectus. E quindi penso che il rapporto, mettere in rapporto, e non in opposizione, mondo missionario e mondo mistico potrebbe essere una buona chiave di lettura. E Vitelleschi parlerà, certo, perché il mistico sarà difficile sempre da capire, dunque questi movimenti mistici che verranno stroncati all'inizio del XVII secolo nella Compagnia di Gesù, e Vitelleschi, dicevo, per l'appunto parlerà di questo spirito straniero che si è infilato nell'ordine. Il secondo punto che mi interessa interessante di queste pagine, e una citazione che la Tomasini fa un po' anche lì en passant, però che per me è molto ricca. E parlando Nobrega, quando è nelle tante descrizioni che dà di questa terra, dice, scusami il portoghese, poucas letras bastarían, dice Nobrega parlando di questa gente senza scrittura e con una voce difficile da capire, poucas letras bastarían aquí porque todo es papel blanco. E no che facer otra cosa, sino escrever a vontade as virtudes mas necessarias e tercelo. Dice, qui il lavoro è molto semplice, dice, perché tutto qui è una carta bianca. Qui non c'è praticamente, questi non hanno niente. E questo poi in Paraguay sarà ancora più evidente, non hanno dei templi, non hanno sacrifici, sì, si mangiano un po' tra di loro, questo sarà un problema, ma tornerò su questo aspetto interessante del cannibalismo che viene nella scrittura del libro della Tomasini. È tutto da fare, è facile qui, non siamo nella Cina, capite? Non siamo nel Giappone, dove i gesuiti toccheranno lì una cultura, come diremo oggi, no, non diremo più oggi, dopo Lévi-Strauss, ma una cultura sviluppata, no? Dove c'è la scrittura, dove c'è altro che, no? Più che la scrittura, no? No, qui non c'è niente. Girano nudi, non hanno dei riti, non c'è un pantheon, non c'è niente. Quindi il lavoro è facile, perché questa è una tabula rasa già fatta, non la dobbiamo fare noi, è già fatta, no? Ecco. Questo è l'altro, mi sembra un punto significativo nella stesura di tutta il libro, di questa pagina bianca, perché questo è il problema, affrontato non soltanto da Tomasini, da tanti, no? Di questo che sarà l'invenzione dell'America, no? Beh, poi O'Gorman, Edmundo O'Gorman, ha scritto un bellissimo volume al riguardo di come con la scrittura si può inventare un continente e i suoi abitanti, e forse un volume in qualche modo superato da un altro, che è José Rabassa, della Harvard University, che ha scritto quell'altro bellissimo volume, Inventing America, no? In quanto che, perché il libro di O'Gorman certo poteva far supporre che America è un'invenzione, perché questi non avevano in qualche modo, come dire, la nostra formazione antropologica, la nostra finesse culturale, e hanno inventato di sana pianta, così come lo fa secondo Gorman Cristoforo Colombo, inventano un continente. In parte è vero, ma il problema è, secondo me e secondo Rabassa, che la questione non è finita in qualche modo, no? Cioè l'invenzione dell'altro, come, che è una pagina bianca, continua tuttora con tutti i rischi di manipolazione, no? E quindi penso che in questo senso ancora il libro da Tomasini potrebbe essere interessante, per pensare che noi facilmente di tante cose facciamo pagine bianche sulle quali poi interpretiamo la voce dell'altro e via dicendo. Insieme con questo, come direbbe anche Michel Desserteaux, è chiaro che chi scrive è un conquistatore, no? Chi esercita la scrittura è uno che esercita una posizione strategica di padronanza e di dominio. Anche tu, mi dispiace per te, ma anche tu in qualche modo, esercitando la scrittura, ti metti da parte di colui che ha il potere per scrivere, no? Ma, e questo è Michel Desserteaux nella scrittura della storia, ma non soltanto questo, che ogni nostra costruzione, cioè credo che un po' l'avviso che potrebbe dare lo storico a se stesso, agli altri, che ogni nostra percezione della così chiamata realtà in definitiva non è che una costruzione nostra. E l'ultima cosa, chiudo, che mi sembra interessante, per affrontare la lettura di questo libro, e che per l'appunto il paradiso per il gesuita missionario, forse perché portando questa radice mistica, il mistico dice sempre non lo si trova qui, lo si trova al di là. Questa è la voce del mistico, no? Che non trova mai Dio, perché il giorno che Dio, che il mistico trova Dio, è finita la mistica. Quindi, e ancora metto insieme il missionario, perché è interessante la figura di Nobrega, forse con questa radice mistica, che dice la terra promessa, la terra di missione è in San Vicente adesso. E in quel sertao, cioè non qui, perché è al sud, dove entreranno poi in conflitto con i confratelli che verranno per l'appunto dal Perù, e nel sertão, la dove la, il nuovo spazio, il nuovo spazio vergine, lo spazio dove potremmo trovare l'Arcadia. Io penso che i gesuiti, più che essere creatori di utopie, sono ricercatori o creatori dell'Arcadia, cioè di quei luoghi primitivi, quel paradiso, quel no, dove loro possono impiantare in un ambiente, come dire, non contaminato, l'annuncio del Vangelo. E a pagina 130, sto chiudendo Paolo, mi chiedo scusa al professor Prosperi, e a pagina 130, ecco, descrivendo il nobre a questa situazione, dice, ecco, queste che stanno, già i guaraní praticamente a questi stanno guardando, è gente di lingua travada, e perché parlano è una babele, parlano mille lingue, non si capisce niente, non è più quel tupì che noi con sforzo abbiamo imparato, ma qui è una lingua travada, è una lingua che ho tante lingue che non si capisce, che non si capisce niente. Ancora una volta la figura del papel branco in qualche modo. Finisco dicendo un documento che a me è sembrato, perché vedete la scrittura che fa la scrittura conquistatrice dell'europeo non è soltanto esercizio di dominio, forse sarebbe riduttivo senz'altro presentarlo così, ma è occasione per scrivere la propria storia europea, cioè in qualche modo. E c'è un documento che viene citato dalla Tomasini nell'appendice, che è una lettera di Antonio Rodríguez aos padres e irmãos de Coimbra, in Portugal. E questo Antonio Rodríguez è un ex militare che entra alla Compagnia di Gesù, il quale Antonio Rodríguez sarà testimone in prima persona nel 1523 nella fondazione della mia città, Buenos Aires, dove, dopo una ribellione fatta al povero Pedro de Mendoza, che manda poi al patibolo 4-5 spagnoli che erano i capi della ribellione, la notte, racconta Antonio Rodríguez, era tanta la fame che gli spagnoli vanno a mangiare i resti di questi poveri corpi appesi al patibolo. E qui le cose veramente sono notevoli, perché allora uno dice, ma è vero che questi troveranno, dico i missionari ed altri, forse si metteranno in contatto con popolazioni cannibali, ma il racconto del cannibalismo che cosa è in definitiva? Forse uno potrebbe dire non è altro che l'Europa che si scopre cannibale, come si scopre cannibale nel sito di Saint-Cyr, quando lo stesso Jean Delery dovrà scrivere la storia del sito di Saint-Cyr, dove una madre si è mangiato i suoi figli, no? Durante le guerre di religione, no? Quindi mi sembra anche che questa scrittura su questo pezzo bianco che è l'America e questo raccontare il cannibalismo serva anche a questa scrittura di raccontare che innanzitutto Europa è cannibale, no? E che forse America è lo spazio dove questa cosa si può raccontare, perché stiamo tra cannibali. Quindi il fatto, no, che noi cristiani già ci siamo mangiati, adesso voglio dire, no, con questi... Ecco, mi sembra, scusate questo disordine, mi scuso con il professor Prosperi, del tempo, credo che questi spunti possano, spero, suggerire l'avvicinarsi a queste pagine della Tomasini. Grazie mille. Allora, moltissime grazie al professor Morales per essere uscito dal seminato, ma poi neanche tanto, insomma, mi sembra. Quindi invito a parlare il professor Adriano Prosperi della Scuola Normale Superiore di Pisa. Grazie. Io arrivo buon terzo dopo che l'opera è stata presentata nel suo intreccio, nei suoi temi, e dopo che padre Morales ci ha, posto domande molto suggestive e ci ha fatto fermare sopra un caso di antropofagia che ha svelato qualche aspetto di questo mondo così lontano di cui Antonia Tomasini si è innamorata. Io sono testimone, sono qui per testimoniare come è nata questa ricerca e con quanto fervore, con quanto entusiasmo Antonia Tomasini l'abbia portata avanti, trascinando anche me, dietro il suo entusiasmo su un terreno a me poco familiare, al di là della frequentazione delle fonti e di questa straordinaria documentazione della storia della Compagnia di Gesù che Roma ci conserva, non solo Roma, come padre Morales ci ha insegnato, ma ci conserva in maniera straordinaria. Una documentazione ricca, strepitosa, tale che se ne resta in qualche modo prigionieri, è vero, perché la scrittura attenta, continua, puntuale, seducente, è vero, con cui i gesuiti hanno raccontato le loro esperienze, è una cosa che non può che sedurre. Naturalmente però devo ricordare che Antonia Tomasini, se non ricordo male, è stata sedotta più che dalla scrittura degli archivi, dal contatto personale. Mi ricordo una sua narrazione della passione che l'aveva presa per la storia delle missioni, che nasceva dall'aver visitato dei luoghi, d'aver visto i ruderi delle missioni di gesuitiche in questo mondo straordinario, vero, che l'America Latina, in particolare il Brasile, rivelano, vero, a chi li visita. E quindi il suo interesse per Nobrega è poi nato, mi pare, per capire meglio come questo mondo delle missioni è nato e che rapporto ha avuto con questo continente che è il Brasile, questo enorme continente, se queste tracce che ha lasciato sono ancora decifrabili, mettendo appunto a prova l'analisi delle scritture. Io penso che padre Morales, che appunto sfidandoci un po' su questo terreno, vero, che cosa ci può interessare di cose che sono accadute 300-400 anni fa? In fondo la nostra curiosità si accende di più per vicende relativamente vicine, per la storia contemporanea, e tuttavia devo dire che in questo caso la scelta del punto di analisi è importante proprio per permetterci di capire il mondo in cui viviamo, nel senso che l'età moderna, sempre più desueta negli studi a favore della storia contemporanea, della storia dell'altro ieri, la storia moderna è la storia di come si sono formati i caratteri fondamentali del mondo in cui viviamo, caratteri profondi, caratteri in qualche modo rimasti sedimentati nel fondo delle nostre civiltà, che affiorano ogni tanto e ci si presentano come qualcosa che non riconosciamo più. Salvo poi parlare di identità, vero, l'identità cristiana, per esempio, come qualcosa che una volta inventata, una volta creata, poi rimane stabile, viene ereditata sempre uguale a se stessa. Il mondo del Brasile coloniale, affrontato da Nobrega, è una parte fondamentale di questa realtà moderna, e forse proprio il fatto che nel nostro presente, diciamo da qualche decennio, il mondo ex coloniale si presenta con caratteri nuovi, autonomi, vero? Ci presenta anche il conto dell'attività della colonizzazione e si offre nello scenario del mondo con una voce, diciamo, che si deve ascoltare, che si fa sentire per la potenza che reca, vero? Per la novità che reca. Forse proprio questo fatto ha riacceso un interesse per le realtà coloniali diverso da quello che era caratteristico della storiografia tradizionale. Una volta raccontare, diciamo, il mondo coloniale portoghese o spagnolo era semplice, bastava prendere la voce della narrazione, vero, sedimentata dai colonizzatori, e mostrare come la civilizzazione, vero, fosse avvenuta, civilizzazione come equivalente di cristianizzazione, una pagina bianca in cui diciamo, la civiltà europea scrive la sua parola, e quella parola rimane fondamentale per forgiare questa umanità. Bene, tutto questo, diciamo, non ha resistito all'emergere improprio di questi mondi, a loro farsi presenti, e da allora è cominciata una storia diversa, è cominciato un processo alla colonizzazione, un processo che ha avuto anche punte estreme, punte polemiche. All'epoca del festival della scoperta del nuovo mondo ci fu anche un festival de los no descubiertos, il festival dei non scoperti. Ma non è solo questo aspetto superficiale che ci interessa, ma il dubbio che ci prende molto spesso se quella colonizzazione, appunto, abbia avviato queste società sulla strada giusta, o se invece non siamo noi che dobbiamo imparare dai nostri errori riflessi nelle storie di questi paesi a ragionare di nuovo su che cosa è avvenuto allora. E allora naturalmente dobbiamo rifarci alle fonti, che sono fonti scritte, certo ci sono anche fonti, come si dice, ci sono anche documenti di carattere diverso, architettonico, ci sono dei manufatti straordinari, vero? Chi ha visitato qualcuna delle mostre del Brasile coloniale, che il Brasile ha dedicato alla storia delle sue missioni, ha potuto ammirare delle cose straordinarie, soprattutto importanti e impressionanti, soprattutto perché danno un'idea dell'incontro tra qualche cosa che preesiste e una proposta che arriva dall'Europa cristiana. E decifrare questo incontro, è vero che qualcuno tempo fa propose di parlare non di colonizzazione ma di acculturazione, pensando che, diciamo, le civiltà si incontrino come si incontrano i delegati dell'UNESCO ai giorni nostri. No, diciamo, non è stata una acculturazione pacifica, è stata una scena piena di rumore e di grida, è stata una scena terribile, vero? Di una estrema violenza. E decifrarla, però, per decifrarla noi abbiamo come fonte primaria le scritture, e di queste scritture la Compagnia di Gesù ha prodotto una tale quantità che ci ha in qualche modo imprigionati nelle sue maglie. Dietro il libro di Antonio Tomassini c'è la grande opera documentaristica di Serafim Leites, dei valenti editori delle fonti relative alla storia della Compagnia di Gesù. Aspettiamo ancora che queste fonti vengano ancora studiate e pubblicate. Purtroppo le generazioni dei grandi storici che la Compagnia di Gesù ha regalato, ovvero alla cultura storiografica, si stanno un po' rarefacendo, e quello che una volta era, non so se c'è qualcosa di nuovo, ma quello che una volta era un dato acquisito, cioè che l'archivio dei gesuiti aveva degli operai di quella vigna, vero, che pubblicavano documenti, adesso non coincide più con la nostra esperienza. Il mestiere dello storico è un mestiere, diciamo, un po' in declino. Tuttavia, quello che volevo dire è che queste fonti richiedono uno studio attento per capire come sono state scritte, per capire, Morales, per esempio, alludeva, ma è stato alluso anche prima, mi pare, alla mancanza dei miracoli nelle vite di Ignazio, bisogna descriverle in maniera da far figura dei miracoli. Noi italiani aspettiamo ancora da molto tempo un'edizione seria, vero, della grande opera di Daniello Bartoli, questo grande scrittore, grande storico, che piaceva molto, per esempio, a Leopardi, vero? Aspettiamo ancora un'edizione della sua storia della compagnia, che ci dica finalmente, vero, che cosa ha scritto Daniello Bartoli, perché quello che arrivò alle stampe nel suo racconto, per esempio, della vita di Francesco Saverio, fu un testo rivisto per la necessità di inserire qualche miracolo, perché nel frattempo Francesco Saverio, vero, era stato canonizzato, e quindi il racconto puro e semplice che Daniello Bartoli aveva fatto non soddisfaceva più. Ecco, quindi bisognerebbe... Queste scritture richiedono il vecchio lavoro, l'antico lavoro del filologo, che ci riporti alla loro forma autentica, alla loro forma originaria, senza rimanerne poi prigionieri. E infatti l'esercizio più imponente che oggi si propone è proprio quello di cercare di cogliere attraverso le fonti di chi ha scritto la voce di chi non aveva scrittura. Questa è la sfida, vero, di chi cerca di capire che cosa è successo con l'evangelizzazione, con quella che si chiama la cristianizzazione o evangelizzazione dei popoli coloniali, ma in fondo anche la stessa storia che si propone per chi studia la vita sociale, le convinzioni, le idee delle plebi italiane del 5 e del 600. Anche di loro noi sappiamo, attraverso ciò che ci è stato raccontato, il fatto di non avere una scrittura propria ha tolto loro la possibilità di dire la loro, ma è nel risultato che noi cogliamo l'incontro, vero? È nel risultato storico di quell'operazione che noi dobbiamo cogliere questo incontro che ci fu e di cui Antonio Tomassini ci dà gli elementi attraverso lo studio di ciò che provò, pensò e scrisse Manuel da Nobrega, queste difficoltà che Nobrega incontrò, i metodi che elaborò, diciamo, sul terreno, da dove venivano, quali erano le sue idee, come vennero cambiando nel corso dell'opera davanti ad un'impresa enorme, vero? Questi missionari gesuiti avevano di fronte paesaggi geografici e umani che appaiono sterminati anche ai nostri occhi di oggi, vero? Ed erano pochi, e dovevano diciamo, far rendere questa vigna, quella che loro chiamavano la vigna del Signore. Era una vigna sterile, come ha scritto Charlotte Castelnau, una delle studiose migliori, vero, di questo mondo. Era una vigna sterile perché sembrava facile battezzare e convertire, e in realtà poi si scopriva che non serviva assolutamente a niente, perché il battesimo intanto non coincideva con un vero cambiamento culturale, vero, della mentalità, del modo di operare. Anzi, bisognava essere attenti, come racconta Antonio Tomassini, bisognava essere attenti nell'erogare il battesimo, perché siccome veniva dato agli adulti quando erano in fin di vita per salvarne l'anima, gli indigeni si erano convinti che questo sacramento facilitasse la morte e quindi se ne tenevano molto lontani. Lo si poteva dare ai bambini, ma i bambini poi andavano educati. E qui si affaccia alla storia, attraverso le pagine di questo libro, una legione di bambini usati, ero, con criteri, oddio, non sono proprio quelli del Gesù evangelico che diceva lasciate che i bambini vengano da me, nel senso che ci sono questi meninos che vengono importati dal Portogallo, dagli ospizi del Portogallo, questi orfani, questi bambini degli istituti, che vengono importati in Brasile per accompagnare il padre gesuita che si recava, diciamo, suonando i campanelli, vero, e cantando al villaggio, ai luoghi dove doveva evangelizzare. E quindi c'è un uso, diciamo, suggestivo, molto suggestivo, ma che ci fa porre il problema, diciamo, con quanta disinvoltura si potessero usare i bambini. C'è il problema poi dell'educazione dei bambini indigeni. Possono essere bambini istruiti nelle lettere? Perché noi non abbiamo niente di scritto, anche perché questi popoli non imparano a scrivere e a leggere. e la risposta che viene dal Portogallo è no, non possono essere, non sono i bambini del popolo che devono essere educati dai gesuiti, semmai diciamo, ci si muove ad un livello più alto, ecco, ma il problema del mettere in mano ai popoli colonizzati lo strumento della scrittura è un problema per il potere portoghese. E qui viene fuori l'interlocutore effettivo dei gesuiti e in particolare di Manuel da Nóbrega, l'interlocutore diciamo che sta in una posizione molto importante, la corona portoghese. Viene fuori anche diciamo qualche cosa di quello specifico legame che unì allora i gesuiti portoghesi alla corona e che rese i gesuiti portoghesi diversi dai gesuiti spagnoli e dai gesuiti italiani. In questi vasti orizzonti mondiali in cui si svolgeva l'opera della colonizzazione, dell'attività missionaria, queste figurette isolate, vero, che si avventuravano in Cina, è stato evocato il nome di Matteo Ricci, o entravano in queste enormi distese del mondo, di un mondo brasiliano che appariva allora alternativamente il regno del demonio o il paradiso terrestre per la bellezza della natura, per la ricchezza della natura, e mondo diabolico per i costumi di questi indios, sodomiti, vero, antropofagi, eccetera. Per queste figurette che si avventuravano in questa direzione avevano il problema del potere, dell'uso del potere, un problema che in Giappone e in Cina non si pose, anche se in un certo momento Filippo II di Spagna meditò la possibilità di fare una guerra alla Cina per imporre che accettassero, vero, l'evangelizzazione, la cristianizzazione. Non la fece e noi oggi abbiamo davanti un mondo orientale che non ha niente di in comune con questi mondi che sono stati creati dal colonialismo europeo, men di tutto la religione naturalmente, e si pongono davanti a noi, vero, in un contesto molto diverso. Invece nel caso del Portogallo l'uso della religione è un uso fondamentale, giustamente Antonia ha parlato di fondazione religiosa di un impero coloniale, perché questa è la realtà, cioè il grandissimo, vero, misterioso e gigantesco impero coloniale portoghese ha una fondazione legittimata dal pontefice che autorizza i portoghesi, bisogna avere davanti agli occhi un papato debole, indebolito dalle crisi dell'età dei concili, vero, del grande scisma, eccetera, per capire perché c'è questa corrività del papato restaurato in Roma nei confronti delle richieste che gli arrivano prima dal Portogallo e poi dai re, che verranno chiamati cattolici di Spagna perché hanno cacciato nel 1492 gli ebrei. Per questo è il motivo per cui un papa certamente singolare come Alessandro VI Borgia definì cattolici i re di Spagna, un titolo che si sono poi tenuti molto caro naturalmente, ma la fondazione dell'impero portoghese è legittimata dall'autorizzazione a conquistare e a rendere schiavi i popoli per poterli battezzare. Quindi il problema della forza è di casa in questa storia, e il problema della forza è quello che decide le incertezze di questo intellettuale formato all'Università di Coimbra, dove reggeva Erasmo, dove aveva come docente un personaggio come il dottor Azpilicueta, vero? Il dottor Navarro, è quello che spinge, che fa decidere questo personaggio certamente notevole, che scrive un dialogo umanistico, vero? Che leggeva cose raffinate di cultura europea, a cambiare opinione su come procedere, vero, nel rapporto con le popolazioni. L'uso della forza diventa necessario, se si vogliono ottenere certi risultati l'uso della forza è necessario, la si impiegherà senza batter ciglio e con buona pace di Bartolomé de las Casas. Quindi è una storia piena di sangue, di violenza, che in qualche modo queste carte rivelano e in qualche modo però anche celano, nel senso che possiamo piegarci su di loro contemplando, vero, le tensioni religiose che allora spinsero giovani generosissimi, vero, a dedicare la vita per portare nel mondo la salvezza, vero, della parola di Gesù e del battesimo, ma possiamo anche attraverso queste carte vedere in che modo le migliori aspirazioni, diciamo, a contatto con la realtà rugosa, con la realtà dura, vero, del potere, della volontà di ottenere il risultato, piegassero poi in una direzione, diciamo, di scelte molto, molto ricche, diciamo, molto gravide per la vicenda umana di queste popolazioni e per, diciamo, e per far in qualche modo radicare nella storia del Brasile una forma particolare di cristianesimo, una forma molto particolare che, diciamo, ha lasciato le sue tracce nei secoli, così come l'evangelizzazione delle campagne, delle montagne d'Italia nel 5-600 ha lasciato le sue tracce definendo una volta per tutte, vero, i caratteri di una nazione unita in un tipo particolare di religione, in un certo tipo di religione, di cui abbiamo ancora, diciamo, alcuni esiti, alcuni echi quotidianamente. Di oggi la sentenza sul crocifisso, questa famosa storia del crocifisso, vero? Che ci arriva dall'Europa il permesso adesso di avere il crocifisso in tutti i luoghi, ma questa è un'altra storia, non c'entra niente con quella di cui parliamo. Il crocifisso allora, diciamo, veniva usato, esibito, non sempre, non dovunque, perché per esempio in Giappone, dove, non, diciamo, dove il crocifisso continuava ad essere uno strumento di esecuzione capitale vergognosa, non c'era stata la svolta costantiniana, vero, che aveva portato a sostituire il crocifisso la forca da noi, i gesuiti all'inizio dovettero stare molto attenti nell'esibire il fatto che erano i seguaci della religione di un Dio che era morto crocifisso. Ecco, questo per dire che io credo che il fascino di questa storia che Antonio Tomassini ha sentito vivamente, vero, l'ha portata a faticosi esercizi per impadronirsi di documenti, della loro decifrazione, per individuare la formazione di Manuel da Nobrega, per cercare di capire il perché di questo dialogo umanistico, il perché dell'affiorare di questa parola gentili, vero, che evocava diciamo, il modello di un'umanità che non era stata cristiana, l'umanità antica, per in qualche modo indicare un tipo di umanità che non si sapeva dove collocare. Ecco, il fascino di questa storia che lei ha sentito fortemente ci ha prodotto una esplorazione suggestiva, ricca anche di dati, come sempre nei libri di storia. Nei libri di storia non si cercano teorie, ci aiutano quando ci portano vicini alle cose di cui parlano, non calcano su di loro delle convinzioni preconcette, ma scoprono delle cose e ce le raccontano. E queste storie di bambini che, diciamo, che accompagnano il gesuita scampanellando, questa storia dei sacerdoti che celebrano con una popolazione che in parte è nuda, in parte è vestita, e si pongono il problema se si può consentire questo. Ecco, queste, diciamo, sono tanti flash che riportano davanti ai nostri occhi quel mondo che allora cominciava a ragionare in termini di civiltà, ma che proprio sulla base dell'esperienza del Brasile insegnò a Michel de Montaigne quella famosa legge per cui ciascuno chiama barbarie ciò che non appartiene alle sue abitudini. Lo disse dopo aver visto e ascoltato diciamo, un gruppo di figuranti brasiliani alle feste di re Carlo II in Francia, e dopo aver confrontato queste storie di antropofagia rituale con le vicende dell'antropofagia tra cristiani che si erano cristianamente sventrati e mangiati le viscere durante le guerre di religione in Francia. Quindi bisogna ringraziare Antonia Tomassini per aver fatto questo lavoro e augurarle di mantenere la passione, vero, con la quale ha lottato con le sue fonti ed è arrivata a questo risultato, perché diciamo, il piacere della scoperta è un piacere di tutti, lavorarci per elaborarli e poi portare ai lettori il frutto, pur piccolo che sia, vero, della propria impresa, richiede metodo, determinazione e volontà, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui diciamo, nessuna istituzione, non certo l'università, aiuta più nessuno che abbia concepito questi interessi e queste curiosità. Va detto che Antonio Tomassini questo lavoro l'ha fatto con un dottorato, con l'aiuto di un dottorato all'Università di Pisa, per fortuna, che lei ha vinto, ma poi l'ha fatto soprattutto in maniera autarchica, autonoma, appena appena frenata qualche volta da me. Grazie. No, ringraziamo il professor Prosperi per questa altra serie, per aver attirato la nostra attenzione su quest'altra serie di spunti di analisi che ci portano fino alla contemporaneità, all'estrema contemporaneità. E quindi darei la parola all'ultimo intervento di Aldo Tortorella, direttore della rivista Critica Marxista. Prego. Grazie. Dunque, naturalmente io sono qui per, come diciamo, come uno di quei barbari, vero? Perché io non sono, come sapete, sono un operatore politico, diciamo, un organizzatore politico, non sono uno storico, non sono un filosofo, purtroppo, vero? Perché dato che ci fosse questa vocazione fu abbandonata in anni molto lontani. Dunque, però mi sono molto appassionato anch'io di questo lavoro della Tomassini, per questo sono qui, diciamo, perché con la Tomassini avevamo iniziato, e credo che si continuerà, anche noi un'opera missionaria, diciamo, per certi aspetti molto più difficile, vero, di quella di Nobrega, che era sostenuto dalla corona, vero, l'opera che abbiamo fondato, diciamo, anche con la Tomassini e con altri, un'associazione che si chiama, che ha un titolo assolutamente irrealistico, diciamo, per il rinnovamento della sinistra, vero? Quindi sulla base di questo legame, diciamo, politico, vero, sono stato trascinato, diciamo, a occupare. E in realtà quello che hanno detto, che ha già detto Morales, che ha detto adesso poc'anzi il professor Prosperi, oltre che, diciamo, la prolusione della stessa Cantù, rendono benissimo conto che persino un politico può appassionarsi di queste cose qua, perché in realtà diciamo le domande che facciamo sono domande assolutamente pertinenti, che non riguardano soltanto gli storici della compagnia o coloro i quali si proponessero, diciamo, anche lì di rinnovarne la funzione. E questo riguarda veramente, diciamo, come ha detto il professor Prosperi nella sua prefazione al volume, diciamo, il rapporto tra la ghianda e la quercia. Questo libro riguarda la fondazione appunto di un impero coloniale, riguarda la fondazione del Brasile, questo nome che a un certo punto partecipa al primo nucleo, diciamo, di fondazione della città più grande oggi del Brasile, Sao Paulo. E quindi in questa ghianda, diciamo, in questa origine, effettivamente, per questo c'è stato questo rinvigorimento degli studi sulle origini, perché non è che la civiltà che noi occidentali abbiamo piantato in piedi nella nostra Europa e in tutto il mondo, tutta quella parte del mondo dove non c'erano delle culture che resistessero, eccetera, non è che questa civiltà vada benissimo, diciamo, ecco. E proprio perché non va proprio benissimo, c'è bisogno di capire dove è stato l'errore, diciamo, dove sono stati gli errori. E siccome le spiegazioni un po' semplicistiche, immediatamente politiche, o anche storiograficamente più esperte, più lontane, eccetera, non sono sembrate e non sembrano sufficienti, c'è proprio bisogno di riandare a vedere che diavolo hanno combinato, diciamo, questi uomini, queste persone, diciamo, perché poi di persone umane si è trattato, che hanno diciamo, contribuito in un luogo o nell'altro del mondo alla fondazione della civiltà a cui noi apparteniamo, dell'incivilimento a cui noi apparteniamo. Questo nobile, la Tomassini è così gentile da dire che le mie domande l'hanno aiutato, perché effettivamente in questo libro, diciamo, non so bene, no, io non sono in grado di dare un giudizio, diciamo, di valore, non è la mia materia, no, come ho già detto prima, non so, ma questo libro si scopre un uomo, diciamo, si scopre una persona. E la domanda che io facevo, appunto, ma chi era questo tizio? Chi era? E pian piano mi sono venuto convincendo, poverino, che lui era una specie di funzionario di partito, diciamo, una specie di rivoluzionario professionale, diciamo così, perché da ragazzo lui era stato un intransigente, diciamo, prima di passare attraverso quegli studi severi che ha fatto a Salamanca, poi con un maestro come De Vittoria, eccetera, e il quale tra l'altro ha inventato, ha scoperto, pensiamo all'inizio del Cinquecento, prima della metà del Cinquecento, ha scoperto che esisteva lo ius gentium e non soltanto lo ius inter gentes. Ha scoperto, cioè, e qui stiamo ancora a combattere col fatto che l'immigrato clandestino commette un reato, perché non viene riconosciuto che esiste un diritto delle genti che non è soltanto, che non coincide col diritto tra gli stati, il diritto internazionale, eccetera, eccetera. Vabbè, ma questo ragazzo, Nobrega, era un intransigente, cioè. Nel momento in cui la fede cattolica doveva misurarsi con l'eresia della riforma, diciamo, questi ragazzi la vivevano come un'impresa eroica, no? Tanto che si distinguevano per il fatto di andare a svegliare di notte la gente dicendo pentiti, pensa ai tuoi peccati, eccetera, con grande fastidio degli abitanti delle città in cui essi svolgevano, Coimbra e altrove, dove svolgevano questa attività, diciamo, premissionaria, questa attività di risveglio delle coscienze al dogma cattolico, diciamo, che veniva posto in discussione, che era stato posto in discussione e che determinava proprio in quegli anni qui in Europa, già incominciava a determinare quelle spaventose lotte, diciamo, che culmineranno anche qui, che tra l'altro sono cose dimenticate anche qui in Italia, diciamo, questa nostra Lombardia, diciamo, che oggi così egemone, è la terra in cui nel suo lembo più settentrionale è stato compiuto, e non nel Cinquecento, in tempi molto più avanzati, è vero, essendo, insomma, quello che si chiama il sacro macello, vennero sventrati tutti, uccisi tutti i riformati nella Valtellina in una notte, compresi i bambini. Però coloro i quali propugnavano la fede cattolica, diciamo, si appassionavano alla fede cattolica, in contrasto con la riforma, è vero, credevano profondamente, c'è poco da dire, e scelgono, certo, c'è, diciamo, l'amicizia con la famiglia, diciamo, reale di questo piccolo nobile, di questa piccola nobiltà provinciale a cui apparteneva questo ragazzo, però questo gli poteva anche garantire, come garantiva ad altri, un altro tipo di carriera, diciamo così, meno rischiosa, meno pericolosa, sceglie appunto, come diceva il professore Prosperi, di andare a portare la fede, di andare a portare. E quando è là, questo missionario, diciamo, di Gesù, si accorge che da un lato deve convertire questi, diciamo, selvaggi, ma dall'altra parte deve convertire i suoi stessi colleghi, perché questi sacerdoti che lui si trova davanti lì, che erano già impiantati alcune missioni c'erano già, avevano, come spiega appunto la ricerca di Tomassini, avevano non soltanto i coloni, ma i sacerdoti stessi assunto i costumi della terra in cui operavano, erano poligami, avevano numerose consorti, eccetera, e praticavano la stessa vita e di conseguenza rendevano inverosimile il messaggio di uno come questo giovane missionario gesuita, il quale invece veramente voleva. Ed è molto interessante questo passaggio, no? Dallo sforzo della evangelizzazione che cerca di radicarsi nei costumi stessi di questi che, perché lui capisce che lì dentro c'erano delle anime, diciamo, è aiutato anche dagli studi che aveva fatto, insomma, che questi non erano dei brutti, diciamo, vero, come si diceva allora degli animali, ma avevano dentro e studia le cerimonie, per esempio stregonesche, per individuarne il significato e per cercare di, attraverso di questo e anche con quell'uso dei bambini, diciamo, che servissero da interpreti, dei bambini indigeni che servissero da interpreti, eccetera, cerca di vedere se si può fare un'evangelizzazione. Però egli stesso, nel termine della sua vicenda, diciamo, missionaria, lui morirà lì in Brasile, al termine della sua vicenda missionaria, in realtà poi si, diciamo, come dire, si piega, ecco, o aderisce, o pensa giusto, insomma, e questo è un problema molto difficile da capire, ma insomma mi pare che insomma, in definitiva, ci vuole anche la schiavitù, insomma, ecco, ci vuole anche la schiavitù, ci vuole la forza, e fonda lui che aveva cercato di svolgere questa, e fonda anche delle fabbriche, delle cose in cui si lavora in regime con la forza, qui si lavora per la trasformazione della canna da zucchero, eccetera. Quindi è una storia, diciamo, che ci parla molto della, come ha detto Morales, del tempo di oggi, cioè nel senso che naturalmente tutto cambia, questo è ovvio, diciamo, ed è persino difficile parlare di qua della modernità, perché per uno come Nobrega, diciamo, che se la modernità incomincia dal momento in cui si incomincia a pensare che non c'è un ordine costituito da applicare, precostituito, un ordine divino da applicare, eccetera, è così, Nobrega non è di questo parere, insomma, siamo lontani anni luce, insomma, dalla critica dei testi sacri, vero, che farà per primo, per la verità, Spinoza nel campo, eccetera. Ma il fatto che siamo ancora dentro un mondo in cui i protagonisti, come questa persona di cui si occupa questo libro, credono ancora che ci sia un ordine, divino, che deve essere tradotto nella pratica, eccetera, non impedisce di vedere che dentro questa ghianda, dentro questo seme, diciamo, di quello che poi sarà la civiltà che viene dopo, ci sono anche degli elementi che tornano e ritornano continuamente e ritornano naturalmente anche oggi. lo diceva benissimo Morales, l'idea della pagina bianca è un'idea permanente, diciamo. Adesso la pagina bianca viene colmata dalla televisione, diciamo, dai mezzi di comunicazione di massa, eccetera, la formazione, adesso si chiama formazione dell'opinione, no? Allora si chiamava, diciamo, trasformazione delle anime per l'immissione in questi corpi e in queste anime primitive, come sembravano appunto della fede. Ma insomma questo bisogno, diciamo, di avere uno sforzo di omogeneizzazione culturale, di acculturazione omogenea, eccetera, e non è una cosa che riguarda soltanto la contemporaneità, anzi nella contemporaneità ritorna, e qualche volta ritorna in forme anche diciamo molto premoderne, quando abbiamo assistito all'idea che, diciamo, a un certo punto la legge della forza imponeva a questo o a quel paese del mondo, diciamo, la volontà. Oggi è diverso. Oggi, per esempio, in questi paesi dell'Africa settentrionale ci sono folle che festeggiano il fatto che l'Assemblea delle Nazioni Unite ha finalmente votato il fatto che bisogna proteggerli, bisogna aiutare il movimento popolare nato veramente. Ma altre volte è stato il contrario, e cioè è stato il fatto che con la forza bisognava imporre un determinato modello, un determinato sistema, eccetera. Quindi questo interesse, diciamo, che è stato già detto, è quello che ha sollecitato anche me, diciamo, a porre delle domande, perché quello che è successo a questo sacerdote gesuita, a questo evangelizzatore, a questo missionario, forse non è una cosa così lontana, forse è successo e può succedere ancora, diciamo, a tutti coloro i quali pratichino delle idee dogmaticamente assunte, insomma, e che vengono considerate senza l'intervento dell'unica forza vera della modernità, che è quella, diciamo, che un po' grossolanamente si può chiamare la criticità della ragione, insomma, per necessità anche materiali. Questa persona, diciamo, a un certo punto, non sapendo come cavarsela, arriva alla teoria, insomma, alla pratica della schiavitù. Beh, non sapeva più che cosa fare, non sapeva come uscirne, eccetera, e poi la corona gli aveva dato anche un certo indirizzo, aveva dato a questa opera di formazione coloniale un certo indirizzo, un certo orientamento. Però quello che è successo a queste persone che avevano assunto una fede in modo così dogmatico, ma non diversamente però. Questo è un altro caso interessante. Avveniva nelle colonie in cui venivano muovendosi i riformati. E questo è un problema molto, molto, molto interessante, proprio dal punto di vista proprio di nostro, diciamo, non loro, che ormai non ci sono più, eccetera. Ma come mai c'è una logica che sembra dentro nella storia, per cui poi a delle conseguenze simili arrivano sia i missionari cattolici, sia quelli che non si chiamano missionari, ma sono, diciamo, gli evangelizzatori di un'altra, di altre proposizioni religiose. In realtà un legame c'è, diciamo, e il legame è che, così come i cattolici erano dogmaticamente convinti di avere ragione, che la loro fede fosse la veritiera, vero? Così i riformati erano con non minore determinazione e durezza, diciamo, convinti che la loro fede, dopo essere stati coloro i quali avevano posto il dubbio, che avevano posto la critica, eccetera, diventano anch'essi coloro i quali, e quindi anche nelle missioni, diciamo, nella fondazione si comportano in modo, se non uguale, analogo, ecco, se non uguale, analogo, per esempio anche per ciò che riguarda lo sterminio nella settentrione di quel continente degli indiani d'America. Quindi c'è qualche cosa di profondo, allora, che noi vediamo dentro questa, qualcosa che riguarda la nostra cultura, ecco, che riguarda una cultura che però si ripropone continuamente. Adesso è diventata una barzelletta persino il fatto che ci sia qualcuno che dirige uno Stato il quale tutte le volte che le cose vanno male dà la colpa ai comunisti perché non ci sono più. E quindi questa diciamo, può essere considerata una barzelletta, ma non è una barzelletta. Questo è un fatto diciamo, che significa il ripetersi, diciamo, di aspetti della nostra formazione culturale, della formazione della nostra cultura, che non sono mai estirpati una volta per tutte. Il fatto, cioè, che a un certo punto la certezza del dogma, quale che esso sia, diciamo, è molto più comoda della criticità del pensiero, della criticità della ragione, e che la criticità del pensiero e della ragione possa essere scambiato per un vezzo intellettualistico, e questo è qualcosa che si riproduce continuamente. Insomma, può darsi che io sbaglio, naturalmente, che mi sono un po' troppo appassionato io stesso a questo signore, a questa persona che la Tomassini ha studiato, ma certo, diciamo, dentro la storia di quest'uomo, diciamo, partito con questa idea, diciamo, salvifica e approdato a realizzarla, diciamo, attraverso la coazione, la violenza, eccetera, beh, insomma, diciamo che c'è qualche cosa che può narrare anche di noi stessi, della nostra favola, della nostra cultura, del nostro modo di essere e degli errori, diciamo, che ciascuno di noi ha potuto fare e che comunque continuamente possono essere riprodotti. Grazie. Sì, allora salutiamo il professor Prosperi che insomma ci lascia per prendere urgentemente un treno. E allora, a questo punto chiederei se tra il pubblico c'è qualche questione, insomma domanda che insomma è stata sollevata dalla discussione che si è animata questo pomeriggio con i tre interventi, anzi quattro interventi. Io ce l'avrei una domanda. Prego. Tutto il problema che pone Antonia su rendere schiavo, no, gli indigeni, no? Se posso a un certo momento, perché non si è posto per le altre colonie, Angola, Guinea? Perché lì non c'è mai stata una riflessione su questo problema, se rendere schiavi, no, gli indigeni, queste altre popolazioni. Rispondere? Prego. Morales sa tutto su questo. No, Morales lo sa tutto. Morales può dire questo. Poi mi aiuta anche la professoressa Cantù, Paolo, la Tomassini, non lo so. E, allora, sì, in territorio portoghese c'è questo problema ed è, mi sembra, tipico del mondo portoghese, in questo senso in America Latina, perché la legislazione, cioè quello che viene chiamato il derecho indiano, cioè il diritto che si crea a partire della scoperta, vieterà la schiavitù, dopo un po' almeno, la schiavitù dell'indio, no, dell'originario, diciamo così. E poi questo principio verrà applicato, non applicato, poi con quello che si chiamerà l'indio di guerra sarà diverso, ma mi permetta questa cosa generale. Per rimediare ciò, cioè il fatto, sto parlando dell'America spagnola, per rimediare ciò i gesuiti concretamente dovranno fare uso abbondante di mano d'opera schiava, cioè di africani, per lavorare nelle proprie, perché l'indio non poteva in modo assoluto, era suddito e non poteva, dunque addirittura doveva, come molti sudditi, non ogni suddito, e il pecero, la figura del pecero in Spagna, anche l'indio doveva pagare un tributo al re, dunque che poi questo tributo veniva pagato in altre forme, in servizio e via dicendo, però non poteva essere schiavo. Quindi i gesuiti concretamente si porranno il problema, risolveranno il problema dicendo che, penso al primo provinciale, al primo superiore dei gesuiti in Paraguay, che accetteranno il fatto di avere nelle proprie faziende mano d'opera schiava. Questo fino al tardo Settecento, cioè fino all'espulsione dell'ordine della Medica. Invece in Brasile non sarà così, tanto è che uno dei problemi che avranno queste riduzioni che dicevo del Paraguay è che scenderanno le famose bandeiras del Raposo Tavares e di altri portoghesi vicino a San Paolo per prendere gli indios che erano messi in questi villaggi dei gesuiti nel Paraguay, perché li andavano lì a schiavizzare. E dico, scenderanno alcune di queste bandeiras addirittura con cappellani gesuiti portoghesi che accompagneranno questa spedizione, quindi l'affare complesso. Ma non so se le rispondi un po' là. E i gesuiti faranno un'opera di, diciamo così, di evangelizzazioni con molte di queste popolazioni dell'Africa costiera, diciamo così, e anche di questi africani che arriveranno schiavi in America. Il caso più emblematico è Pedro Claver, che è stato anche canonizzato dai cattolici, e lavoreranno con queste popolazioni, ma diciamo normalmente non verrà discusso l'istituto della schiavitù dell'africano, perché, qui chiedo aiuto alla professoressa Cantù, perché seguendo certe dottrine o letture di dottrine aristoteliche si pensava che certe popolazioni erano nate per il servizio e perché erano forti, perché erano di costituzione fisica e potevano, scusate perché adesso ho detto questo, oggi è molto brutto, e potevano rendere questo servizio, altri no, e questo era un po' detto un po' poveramente la cosa. Mi aiuti? Sì, beh, questa è la tematica sul dibattito della legittimità o meno dell'esistenza dell'istituto della schiavitù. Perché non si è posto per l'Africa, diciamo così, il problema, non è stato o quando è stato tematizzato questo problema? Allora, per una ragione molto semplice, quando si è scoperto l'America si credeva che esistessero soltanto 3 continenti. E nell'ambito dei quali, diciamo così, nel mondo mediterraneo dell'epoca, poi anche la pratica della schiavitù era una pratica normale, cioè la schiavitù nasce come un istituto, a noi sembra contraddittorio, come un istituto umanitario, nel senso che nel periodo del confronto nel Mediterraneo tra Islam e Cristianesimo, che ha portato a tutte le razzie di schiavi, guerre, eccetera, e così, ridurre una persona in schiavitù era l'alternativa ad ucciderlo sul posto e dargli un'occasione di riscatto, cioè c'era un periodo di servitù rispetto al quale avrebbe potuto riscattarsi lo schiavo, e si riscattarono da entrambe le parti. Poi gli schiavi ebbero un diverso trattamento anche in ambito cristiano, in ambito islamico, E poi esisteva anche un'altra ragione, e cioè nella concezione dell'origine dell'uomo, della distribuzione degli uomini sui continenti, si riteneva che i tre continenti, Asia, Africa e Europa, fossero popolati per la discendenza dei tre figli di Noè, Sam, Cam e Yafet. Si riteneva che Cam fosse all'origine della popolazione africana e che su questa popolazione africana sovrastasse la maledizione di Noè sul proprio figlio Cam, la famosa maledizione camitica. Quindi, e poi esisteva ancora una terza ragione, e cioè nel mondo di cui ci occupiamo si riteneva che il comando evangelico con cui si chiudono i Vangeli sinottici, con la missione degli apostoli cristiani, andate, predicate questo Vangelo fino ai confini del mondo, chi crederà, si riteneva che il mondo fosse stato interamente evangelizzato. Infatti uno dei problemi che pone la scoperta dell'America è anche di cercare di capire com'è possibile che ci siano delle popolazioni che siano vissute al di fuori della predicazione evangelica per 1400 anni. Si pone un grosso problema e si creano anche delle dottrine, leggendo la scrittura, che interpreteranno certi passi scritturistici, ritenendo che gli apostoli, o San Tommaso o San Bartolomeo, secondo la tradizione, si fossero a un certo punto trasferiti al Nuovo Mondo e avessero evangelizzato anche quelle popolazioni, per tutta una serie di ragioni, perché poi l'inserimento o meno di queste popolazioni nella storia della salvezza diventava determinante per attribuire o meno a queste popolazioni uno statuto di piena dignità umana. Detto questo, però, tornando un attimo nei tre continenti, del vecchio mondo, e si riteneva quindi che questa predicazione in realtà aveva condotto il cristianesimo fino ai confini del mondo allora conosciuto, e che quindi tutti coloro che non lo praticavano erano fondamentalmente apostati o idolatri, cioè avevano tradito la confessione cristiana che in età apostolica era stata condotta fino a loro. E quindi sotto questo profilo potevano essere ridotti in schiavitù, così come gli infedeli nel confronto armato, nell'ambito del Mediterraneo, sulla frontiera del combattimento tra Islam e cristianesimo, e potevano essere ridotti in legittima schiavitù. A metà del Cinquecento però abbiamo due delle prese di posizione su questo punto, a parte poi testimonianze che si trovano nelle lettere degli evangelizzatori, compreso nelle lettere dei gesuiti. Una è quella di Alonso de Sandoval, che scrive un trattato sull'ingiusta schiavitù delle popolazioni africane, che è stato considerato un po' il Las Casas, anche se non ha avuto la stessa ridondanza, la stessa fama. L'altro è lo stesso Las Casas che nella Historia de las Indias scrive a un certo punto, commentando uno storico portoghese, commentando la conquista portoghese dell'Africa, scrive facendo un atto di pentimento di non essersi egli stesso reso conto in tempo anteriore a quello in cui scrive, siamo alla metà del Cinquecento, che la condizione degli africani era esattamente analoga a quella degli indios, e come lui si era sempre battuto per affermare la libertà fondamentale della persona umana da riconoscere alle popolazioni indigene, la stessa e analoga posizione di rifiuto della schiavitù avrebbe dovuto essere proclamata anche per le popolazioni africane. E siccome lui si trova all'inizio della sua carriera, pubblica, tra i fautori dell'importazione di schiavi africani nei Caraibi, dove la popolazione indigena era stata decimata dalla presenza e dallo sfruttamento degli spagnoli, e confessa apertamente che non sa se, quando poi si presenterà di fronte al giudizio divino, potrà essere perdonato per questa importante e drammatica omissione che aveva fatto nell'ambito dell'assunzione delle sue posizioni dottrinali e delle sue battaglie. Quindi non so se ho in qualche modo risposto alla domanda. Come diritto, a questo punto chiederei all'autrice Antonia Tomassini, cioè non obbligherei, ma chiederei a Antonia Tomassini di intervenire, per chiudere l'incontro. grazie a Broggio e grazie a tutti gli oratori, a tutti coloro che sono venuti gentilmente qui oggi, come mi da richiesta, diciamo, del gentile Tortorella. Sono ringraziamenti assai brevi, ormai l'ora è tarda e quindi non vorrei tediarvi con nulla di più. L'unica cosa che volevo aggiungere invece rispetto a questa questione degli schiavi è che per tutto lo studio che ho fatto di Manuel Danobrega, per un sacco di tempo io ho creduto che laddove si parlava di manodopera si parlava di manodopera di colore che veniva dalla Guinea, perché molte erano le richieste che Nobrega produce in madrepatria, parlando appunto di necessità di schiavi dalla Guinea e insieme alle vacche, come se appunto la questione, cioè come se si parlasse della stessa cosa. Detto ciò, però, poi confrontando con invece studi storici diciamo coloniali sulla situazione economica del Brasile, invece esce fuori una verità diversa, nel senso che quasi, almeno sicuramente per tutta la missione di Nobrega, quindi fino al 1570, in realtà la manodopera dalla Guinea è veramente, si conta quasi sulla punta delle dita, in realtà l'utilizzo di manodopera indigena è notevole, per cui sicuramente, ecco, in questo senso le grandi poi omissioni della scrittura gesuita non facilitano, diciamo, lo storico o chiunque si addentra nelle loro letture a capire realmente poi qual era poi il panorama economico e coloniale di quel paese in quel periodo. Grazie ancora a tutti voi.